Magazine 24, la rassegna dei settimanali. A cura di Mauro Meazza. Buona giornata, buona domenica a tutti, benvenuti a Magazine 24, puntata della domenica. E allora, per cominciare una puntata della domenica di una rassegna stampa che si occupa di settimanali, devo dire, non potevo desiderare un articolo migliore di questo che vi vado a indicare ora. L'ho trovato su Newsweek ed è intitolato All'elogio della lentezza. L'intitolo in inglese in realtà è molto più carino di così, perché è un gioco di parole tra slow motion, che vuol dire rallentatore, e slow notion, cioè apprendimento lento, nozione lenta, ma potremmo davvero ribattezzarlo così, elogio della lentezza. Malcolm Jones scrive: se siete come me, vi siete persi la giornata internazionale della lentezza, che è stata osservata, è stata celebrata appropriatamente il 21 di giugno, che è il giorno più lungo dell'anno. Dapprima questa giornata della lentezza è stata celebrata a Milano nel 2007, poi via via in tutto il mondo. E l'idea qual è? L'idea è di uscire dalla corsia di accelerazione facendo un po' meno, prendendosi un po' di tempo, riflettendo un po' di più sulle cose, magari per un giorno intero, quindi uscire per una passeggiata, prepararsi un pranzo con cura, oziare con un buon libro o magari sedersi per qualche minuto e non fare accidenti, assolutamente nulla. È molto bello, ma è anche impensabile rispetto alla vita a rotta di collo che conduciamo nei tempi moderni, appunto, scrive Jones. Però lo slow reading, questo è poi il concetto attorno al quale ruota l'articolo, cioè la lettura lenta, il poter leggere lentamente, il riapprezzare la bellezza di leggersi lentamente qualcosa, un articolo, un libro. Beh, tutto questo è stato spesso dileggiato, osteggiato anche a scuola. Lui scrive: gli scolari che leggono più lentamente sono subito etichettati come cattivi studenti e nessuno di loro si è mai preso un premio o è stato proposto per un bel voto. Però anche se può essere sorprendente, la virtù del leggere lentamente qualcosa sta prendendo piede. Alle origini di tutto questo c'è addirittura Friedrich Nietzsche, che nel 1887 parlava di sé come di un maestro della lettura lenta, dello slow reading, appunto, questo il termine utilizzato da Jones. E ne parlava appunto perché invitava ad apprezzare le qualità del leggere lentamente. Ma poi, come venendo ai tempi nostri, ci sono stati la riscoperta, ad esempio, dello slow food, quindi dell'apprezzare la cucina locale, la cucina preparata con cura, poi lo slow travel, quindi viaggiare lentamente per vedere, per gustare le cose che si vedono, e poi anche addirittura lo slow money, quindi mi immagino un guadagnare lentamente o godersi un po' di più i soldi che si è riusciti a guadagnare. In tutte queste iniziative la gente ha cercato di battersi contro la velocità eccessiva della vita moderna, facendo un po' meno, facendo tutto un po' più lentamente. E quindi il movimento della lettura lenta, dello slow reading, non è proprio un movimento cosciente di sé, un movimento organizzato, non ha un punto di vertice, non ha nemmeno un sito internet, però ha tante persone che simpatizzano appunto con questo approccio alla vita. C'è anche un libro che viene citato, l'ha scritto John Midema, il libro naturalmente si chiama, e come se no, Slow Reading, apprezza naturalmente movimenti come lo slow food, in Italia molto diffuso anche per la offerta che noi possiamo avere di questo tipo di proposta culinaria, e invita appunto a leggere un po' più lentamente per capire un po' di più. Alla fine questo è il senso ultimo dell'iniziativa, di queste iniziative. Dice ad esempio Tracy Shealey, che è un insegnante di inglese all'Università di San Francisco: noi uomini siamo matti perché siamo così compresi, così innamorati della tecnologia, che non ci prendiamo il tempo necessario, il tempo che ci serve per pensare a qual è il modo migliore per usare la tecnologia e a quali implicazioni applicazioni possono sorgere appunto da un utilizzo buono o cattivo della tecnologia. I libri possono diventare un posto dove davvero ci stendiamo, ci allunghiamo i piedi e quindi ci prendiamo il nostro tempo per riflettere. Da qui appunto lo slow reading, che diventa un modo quasi di apprezzare la vita. Oggi è domenica, una giornata ideale per cominciare ad abbracciare questa filosofia. Ma siccome a noi piacciono anche i contrasti, allora dallo slow reading, leggere lentamente, leggere per capire, per apprezzare, magari rileggere addirittura, allora io vi invito a leggere lentamente o velocemente, come più vi piace, un articolo dell'Espresso di questa settimana, Tutta la vita in un beat. Di cosa si occupa? Di una cosa che si chiama self-tracking. Questa mattina tocca fare i conti con un sacco di termini inglese, diciamo significa tracciamento di se stessi, cioè l'archiviazione informatica di ogni nostra azione quotidiana. Probabilmente avete sperimentato, o qualche amico vostro ha sperimentato, l'esperienza di poter utilizzare internet, di poter utilizzare, che so, i GPS, i navigatori satellitari, eccetera, per monitorare al computer una serie di azioni della vita quotidiana. Non so quanti chilometri si fanno di corsa ogni mattina, piuttosto che qual è l'andamento dei nostri esami clinici, eccetera. E l'Espresso ha provato a raccogliere un po' tutti questi fenomeni di self-tracking, appunto di tracciamento di se stessi. Allora c'è un gadget che è in grado di registrare quanti passi abbiamo fatto in ogni giorno, quanti chilometri, quanto si dorme, come si dorme, e poi si può anche naturalmente arricchirlo con degli interfacce che servono a inserire il consumo degli alimenti e ottenere un bilancio calorico. C'è un'altra applicazione che consente ad esempio di monitorare e analizzare graficamente il proprio consumo di alcolici su base giornaliera, settimanale o mensile. C'è naturalmente l'applicazione che serve a chi magari percorre quegli stessi chilometri non a piedi ma in bicicletta. Ci sono addirittura delle applicazioni che servono alle signore per documentare il ciclo, e ce n'è una particolare che segnala sempre l'Espresso, un mini portale che permette di registrare le proprie attività amatorie con tanto di data, durata e grado di soddisfazione. Come poi quale possa essere la soddisfazione in senso complessivo di mettere tutta la propria vita dentro il computer e poi di riguardarla, di analizzarla, di trarne dei grafici? Beh, su questo insomma lasciamo a ognuno la scelta. Però sull'Espresso Giuseppe Granieri, che è un esperto di comunicazione digitale, ci avverte in un articolo che accompagna l'inchiesta di Luca Neri, che regge tutto il montaggio, ci avverte appunto che ormai, anche se non lo vogliamo, siamo sempre più online, e quindi è ora di imparare a gestirsi online. Dice: il nostro rapporto con il futuro, scrive Granieri, è partito con il piede sbagliato. Siamo cresciuti con la fantasia stimolata dalla conquista dello spazio, con macchine volanti, tute da astronauta, viaggi interplanetari, ma le cose sono andate diversamente. Invece di accelerare la velocità di movimento dei nostri corpi, abbiamo accelerato la circolazione delle nostre idee. Quindi la velocità con cui condividiamo informazioni sta ridisegnando il modo in cui funziona il mondo, e attività che prima svolgevamo fisicamente, organizzare le vacanze, comprare un libro, parlare con gli amici, sono state dislocate in uno spazio immateriale. Nella grande rete quindi compiamo azioni che non hanno nulla di virtuale, poiché impattano sulla nostra vita e su quella degli altri, e appunto facciamo delle cose che poi sono reali, lo chiamiamo mondo virtuale, ma comprare un libro o decidere un viaggio sono attività estremamente reali. Qual può essere il modo di comportarsi più corretto per trarre, diciamo, da questo articolo di Granieri il senso ultimo? Naturalmente cercare di non essere troppo in oversharing. Cosa significa oversharing? Ed è, spero, l'ultima parola inglese di questa mattina: eccesso di condivisione, cioè condividere eccessivamente tutto quanto di se stessi. È appunto la grande questione della difesa dei nostri spazi personali, scrive Granieri. granieri dell'immagine di noi. Quindi la condivisione di quello che facciamo o pensiamo è una delle più forti ragioni dello stare in rete, è un gesto che ci dona il contatto con gli altri, ma la faccia oscura di questa medaglia è poi nell'eccesso di condivisione. Oramai quasi tutti abbiamo provato a guardare su Google chi è un altro che partecipa con noi a una riunione, che avrà un colloquio di lavoro, con cui abbiamo appunto con cui dobbiamo entrare in relazione, e quindi se proviamo a vedere cosa la rete sa di noi stessi o della nostra azienda, scopriamo magari che l'immagine di noi non dipende solo da quanto abbiamo condiviso noi in prima persona, ma ci sono altre informazioni che non abbiamo potuto controllare. Magazine 24. Bentornati a Magazine 24. Stavamo parlando di vita moderna, allora ci sono quelli che si spendono, che cercano di spendersi per una vita più lenta, a cominciare dall'apprezzare la virtù di leggere lentamente, lo abbiamo trovato su Newsweek. Ci sono quelli che ci avvisano invece sulla vita digitale che stiamo conducendo, cioè sulla dimensione pubblica della nostra vita digitale, sul fatto che ormai in rete ci siano una quantità enorme di informazioni che ci riguardano. Vita moderna, quindi, allora, per chiudere un po' idealmente questo cerchio relativo alla vita di oggi, la copertina di Famiglia Cristiana ci avverte che in Italia ci sono 5 milioni di obesi. Come questo poi possa essere messo in relazione, giudicate voi, con l'andamento della vita digitale o con la scelta di leggere più lentamente, ma il dato è ahimè molto serio. Dice: gli italiani in sovrappeso sono complessivamente 16 milioni, quelli proprio obesi sono 5 milioni, quindi c'è un intervento che viene promosso proprio ovviamente dagli organismi internazionali, dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che parla ormai di un'epidemia globale per quanto riguarda l'obesità. Ci sarebbero oltre 1 miliardo di persone adulte in sovrappeso, 310 milioni obese in tutto il mondo, e anche in Italia l'obesità rappresenta un problema sanitario di crescente gravità. A questo tema è dedicato l'inserto che è con Famiglia Cristiana questa settimana. Un inserto curato tra l'altro in collaborazione con l'Università degli Studi di Roma, l'Università Tor Vergata. Il nostro paese, purtroppo, leggo proprio Famiglia Cristiana, detiene il record europeo di bambini e adolescenti con seri problemi di bilancia. Quindi bisogna prevenire, bisogna curare quella che non è, come più tendono a credere, un fatto estetico, ma può diventare una vera e propria patologia. Da qui comincia tutta una serie di pagine in cui si spiega quali possono essere i rischi, le difficoltà, anche gli aiuti che si possono mettere in campo per combattere, per prevenire il peso in eccesso. Ritroviamo le cifre che vi segnalavo, appunto i 16 milioni complessivamente calcolati di italiani in sovrappeso, e spesso il peso è una questione di appunto cattive abitudini alimentari. C'è un'indagine che ha raccolto delle informazioni sulle abitudini alimentari dei bambini che viene segnalata da Famiglia Cristiana, e che per quanto riguarda la prima colazione ha riscontrato che l'11% dei bambini non fa questa prima colazione, il 28% lo fa in modo inadeguato. Passando più avanti nella giornata, l'82% dei bambini fa una merenda a scuola qualitativamente non corretta. Questo è un dato che continuiamo a sentire, ma evidentemente o non vogliamo correggere o forse non riusciamo davvero a correggere, perché da molti anni si parla appunto della cattiva qualità delle merende di mezza mattina per i nostri figli. Il 23% dei genitori, poi, sempre nella stessa indagine, ha segnalato, fa un genitore su 4, che i propri figli non consumano giornalmente frutta e verdura. E inoltre il 41% dei bambini beve invece ogni giorno bevande zuccherate, il 17% lo fa più di una volta al giorno. Poca è l'attività fisica, e questo naturalmente non fa bene all'obesità. E poi un ultimo dato, sempre in materia di peso e sovrappeso, la distribuzione geografica, che non sembra uniforme, perché, come avverte appunto Famiglia Cristiana, se il sovrappeso appare piuttosto diffuso, con valori vicini alla media nazionale del 24% nelle diverse aree del paese, però per quanto riguarda proprio l'obesità si riscontrano picchi maggiori con scostamenti rilevanti dalla media italiana in alcune regioni del sud. In testa è la Campania, ha un tasso di obesità del 21%, poi ci sono la Sicilia e la Calabria, hanno il 17 e il 16%, la media nazionale è invece del 12%. I valori minimi sulle persone obese sono in Friuli Venezia Giulia 4% e del 7% in Sardegna. Questo è appunto il dossier di Famiglia Cristiana. Lo trovate con Famiglia Cristiana di questa settimana. Parlando di cibo, è fatale collegarsi a questo articolo che ho trovato su Vita, settimana del no profit, proprio di questa settimana. Buon appetito, l'hamburger sintetico è quasi pronto. Non so a voi, a me ha fatto un certo effetto leggere di hamburger sintetico, però Vita ci avverte che potrebbe essere commestibile già dal 2012, quindi in un futuro non così lontano. Che cosa è successo? I tecnici dei laboratori olandesi di Eindhoven hanno ottenuto la prima carne artificiale derivandola da cellule di maiale, calamitando i finanziamenti di una fondazione che si chiama In Vitro Meat Foundation. In Italia pure cresce l'interesse. L'articolo è di Marco Dotti, spiega appunto che questo annuncio dei ricercatori olandesi consiste nel fatto che è stata ottenuta una bistecca di carne cosiddetta sintetica derivandola da alcune cellule di maiale, cioè è stata cresciuta una bistecca praticamente partendo da poche cellule, e questa è stata definita un po' come carne sintetica. I risultati di gradimento, utilizzabilità di questo tipo di carne erano attesi da tempo, hanno rapidamente catalizzato l'attenzione nonché i fondi delle fondazioni. Per ora, ci avverte sempre Dotti su Vita, la carne in vitro non è commestibile, però le previsioni più ottimistiche, come vi dicevo prima, prevedono che diventi commestibile entro il 2012. Altri più cauti si aspettano che la carne sintetica possa diventare commestibile in un periodo che sta tra i 5 e i 10 anni. Ora, in realtà non stiamo parlando di questioni di fantascienza, ma di una questione di sostentamento di tutta la popolazione mondiale, perché la carne coltivata, spiega Dotti, è un prodotto da coltura cellulare, quindi preleva un certo numero di cellule da un animale, poi le lascia crescere e poi le cellule vengono applicate su una struttura spugnosa, immersa in sostanze da cui traggono nutrimento, e quindi si arriva poi a produrre un preparato di carne senza osso, come possono essere salsicce, gli hamburger o le crocchette di pollo. Già in anni precedenti, quindi ad esempio nel 2007-2008, gli scienziati discutevano di questa opportunità. Ad esempio Umberto Veronesi scrisse che la bistecca in vitro non deve scandalizzare né gli scienziati né i buongustai, anzi risponde al dovere morale della scienza di trovare soluzioni al più urgente problema del pianeta, cioè come procurare acqua e alimenti per tutti i suoi abitanti, e soprattutto come riparare alla terribile ingiustizia alimentare che fa sì che milioni di persone muoiano di fame da una parte del mondo, milioni si ammalano per troppo cibo dall'altra, e l'abbiamo sentito prima parlando di Famiglia Cristiana. Quindi questa carne sintetica, questo hamburger sintetico potrebbe essere una risposta a tutto questo. Per quanto ci possa scioccare questo tipo di annuncio, su Vita di questa settimana Marco Dotti ci riferisce come potrebbe anche risolvere o avviare a soluzione alcuni dei più gravi problemi del nostro pianeta. Visto che stiamo parlando di scienza, anche se l'hamburger sintetico può farci più pensare alla fantascienza, vi segnalo che con il Sole 24 Ore è in vendita già dalla scorsa settimana questo volume, questa collana meglio di volumi, che si chiama Sfide Matematiche, cioè sono classici della matematica ricreativa, sono stati raccolti per allenare la mente, sono ideali per il periodo estivo. Una collana che è in 15 volumi e che è in vendita con il Sole 24 Ore dal 5 di luglio. Lo trovate un nuovo volume ogni lunedì, quindi domani sarà in edicola il secondo volume, intitolato Gli Enigmi di Canterbury. Sono giochi matematici ma anche divertimenti matematici in generale. Vi assicuro, io non sono particolarmente versato per la matematica, ma che il volume è effettivamente divertente. Con questa segnalazione io vi saluto, ringrazio Carmelo Lauricella anche questa mattina in regia, ringrazio Margherita Ina, grazie anche a Luca Rinaldi Rinaldi, che è da poco arrivato nello staff di Magazine 24, insieme a Margherita mi ha aiutato a preparare questo programma. Io vi do appuntamento a sabato prossimo per una nuova puntata di Magazine 24. Buona domenica!